avrò con te l'ostinazione di chi rimane sempre, non vuole niente. Avrò per te l'agitazione di quando impari a vivere. E troverò anche il talento di essere felice, di fare pace. Anche se il passato io l'ho odiato, voglio stare qua, in questa notte che ci sta volando via. Ricominciare ancora, cosa vuoi che sia? Ricostruire un orizzonte che non c'è, dove il tuo spazio sono io e il mio sei te. L'inaspettata sicurezza che si può amarsi il doppio dentro piccole anarchie, trovare l'oro nella plastica, da un senso che non si dimentica mai più. Tu vivi e la vita accade, io vivo e la vita accade. Resto immobile con quel disordine che si muove dentro e fa paura, io e te, che non abbiamo nessun altro modo per raggiungerci. Non vedi che quel passato l'hai cambiato? Ma in questa notte che ci sta volando via, ricominciare ancora, cosa vuoi che sia? Costruire un orizzonte che non c'è, dove il tuo specchio sono io e il mio sei te. Indiscutibile bellezza che si può ballare nudi sopra le malinconie. Sei tu quell'oro nella plastica, l'appartenenza che non sporcherò mai più. Davvero, anche se di nuovo non c'è niente, tutto è uguale ma diversamente, come ghiaccio dentro al sale di tue lacrime. Se vivi, io vivo e la vita accade, e la vita accade, e la vita accade, e la vita accade. Questa notte siamo ancora io e te, e la vita accade.